piirissä riima, rustikazione schomatiche. Vista Marte, strada fermate, matrimonio lavoro sociale. Tempo al tempo, enorme concetto, concetto astratto dell'infinito, contro senso inspiegabile. Perché vivere per poi morire? Non dimostrato, non c'è teorema, niente assioma e logica vera. Bianca è la luce, ma non si vede, limpida è l'acqua, ma è inquinata. Astratto Dio e santo è il Papa, vede, non vede, spiegabile. Non mi fido del teorema ormai pensato ed elaborato, che se indica la vita perfetta, prima gioco, poi studio, poi lavoro. Gioco, studio e lavoro. Gioco, studio, lavoro. Marte, gioco, studio e lavoro. Gioco, studio, lavoro. Marte, gioco, studio, lavoro. Gioco, studio, lavoro. Marte, fuoco e teorema universale. Non c'è spazio nel ragionare. Assioma, teorema, prima assioma, poi teorema. Dati di fatto non spiegati, assiomi giustificabili, teoremi astratti, assurdi, precisi, teoremi astratti, assurdi, precisi. Gioco, studio, lavoro. Gioco, studio, lavoro. Gioco, studio e lavoro. Gioco, studio, lavoro. Amate, gioco, studio.